Sì, mi piace fare il cantatore, dire tante cose senza senso, perché il mondo è senza senso e io faccio il cantatore senza senso. Come questa società che non si sa dove porterà, come il nostro governo che non sa fare proprio un corno. Sì, questa è una canzone di quelle belle, di quelle di una volta che forse non mi fanno mai più e forse è meglio così perché fanno proprio cagare. Sì, ma non mi importa a me, ho bisogno di fare nuove canzoni per riempire il CD perché ancora poche tracce da fare. Devo trovare una frase che sia una di quelle che restano nell'eternità. Per esempio, che la vita è una grande cosa e bisogna goderla fino in fondo e non lasciare niente di non fatto, niente di non detto. Provare tutto, provare tutto, provare tutto.